champagne e fuochi d'artificio. Vivi il Capodanno in Emilia. Scopri tutti gli eventi su emiliaromagnaturismo.it. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi e con Carlo Gabardini. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big gold side. I got faith in your belly. Eccoci qua, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. Buongiorno e buona vigilia di Natale da Carlo Gabardini. Eccolo qua, allora niente giornali, niente rassegna, niente buone notizie sui giornali. Partiamo subito così perché oggi è una puntata speciale dedicata a voi, ma dedicata in modo speciale perché siamo registrati, cioè non è puntata in diretta, insomma. Non state a chiamare numero verde, non state a fare, perché stateci solo ad ascoltare giustamente, perché noi non siamo qui in realtà, siamo questa là. La vera cosa siamo là. Però se volete rimanere in contatto con voi, diciamo no. I social, vai, così se vogliono scriverci qualche cosa, commenti dell'ultima ora, giusto. Giusto, insomma, quindi... si può fare trattino Radio 24 è il nostro Facebook, chiocciola si può fare 24 è il nostro Twitter, e poi ci sono i nostri account personali, il mio è chiocciola Carlo Gabardini, c'è anche il mio chiocciola Ale Maurizi, anche se non lo uso tantissimo, poi ci abbiamo, tu c'hai tutto, Instagram, io Snapchat, sono Carlo Gabardini ovunque, sia su Facebook sia su Instagram sia su Snapchat, no, lo faccio poco, lo devo dire. Allora, però volevo dire una cosa, sì, è vero, è una puntata registrata, ma si come vi vogliamo bene, ci teniamo, non è un meglio di, è proprio registrata apposta, sì. è un unicum, cioè solamente in solo per voi, esatto, solo per voi. Voi per una parte, e poi ci sarà una parte di meglio di che è giusto, perché ci teniamo al meglio, sì, che abbiamo fatto durante tutto l'anno, insomma si sente che c'è un clima frizzante natalizio. E allora a Natale è Natale ormai, quasi Natale, come si sa siamo tutti più buoni, però iniziamo da una storia dove i più buoni sono loro, sono solo loro. Do a ba do a choo be do be do. Well, it's been such a long day. I'm kinda tired, bring up soothing arms my way. My back is aching and my body's sore. Don't stop, honey. You know that I want more. She can make kachi. Allora, quando dico loro, intendo tutti e 6.000 e poco più, credo, abitanti del comune di Montelepre in provincia di Palermo, che è risultato essere il più virtuoso di tutti. Il più virtuoso d'Italia. Allora noi, in rappresentazione di tutto e di tutti gli abitanti del comune, abbiamo invitato proprio lei, il sindaco Maria Rita Crisci. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E buon Natale allora. E buon Natale e buongiorno soprattutto alla prima cittadina più virtuosa a questo punto, o la prima cittadina dei più virtuosi, la più virtuosa dei virtuosi. Esattamente, la prima cittadina dei più virtuosi. Virtuosissimi sono stati i miei concittadini che da alcuni anni insieme a noi perseguono una serie di buone pratiche. E il nostro progetto al concorso Comuni, sì, Virtuosi, volendo appunto rappresentare tutte queste buone pratiche messe in atto, ha voluto premiarci per proprio la trasversalità, voi, delle azioni messe in campo. Adesso ci racconterà un po' quali, sì, sono queste azioni messe in campo. Intanto diciamo una cosa, i comuni virtuosi, spieghiamo questo premio di cosa si tratta. Giusto. Anche perché, sì, ci tengo particolarmente a dirlo, anche perché il premio lo do io, io ero in giuria del premio dei comuni, beh, virtuosi, l'associazione dei comuni virtuosi di Marco Boschini e dei è tutto regolare. tutto regolare. È uno dei giurati, ragazzi, Alessio, e noi siamo fierissimi. Anche perché io non ho votato per voi, nel senso che ero in un'altra categoria, ero nella categoria rifiuti, voi invece avete vinto il premio generale, perché qua stiamo parlando di vari parametri. Da tanti anni l'Associazione dei Comuni Virtuosi cerca di monitorare un po' quello che si muove, le buone pratiche in Italia. Ormai gli aderenti sono oltre un centinaio, quasi tutti i comuni medio-piccoli, ma ce ne sono anche di più grandi, e ogni anno lanciano questo premio per mettere in luce comuni nuovi. Intanto lei si aspettava, quando si è candidata, di poter arrivare alla vittoria? No, assolutamente. Alla candidatura non mi aspettavo tanto, non mi aspettavo questo successo. Avevo però ben chiaro in mente, molta fiducia e anche un'estrema determinazione, perché diciamo che ci siamo messi in mente di riuscire nel quinquennio a cambiare davvero il volto di Montelepre, e soprattutto diciamo scardinare questa fase di l'associazione del comune con la tristissima storia della pagina triste della storia d'Italia. Dobbiamo ricordarlo, perché questo premio è ancora più incredibile, perché ricordiamo che nel 2014 Montelepre venne sciolto per mafia, giusto? Mafiose. E poi, tra l'altro, lo possiamo dire tranquillamente, perché lei invece è vincitrice di una lista civica dal nome Reset, giusto? Reset, che dir si voglia, quindi ripartire da zero. Ripartire da zero, proprio così, ricominciare, non per questo significa dimenticare da che cosa siamo partiti, certo, ma certamente ripartire, e ripartire con diciamo i migliori propositi. I cittadini di Montelepre si meritano questo, perché sono comunque persone laboriose che scontano anni e anni di un'onta non semplice, e per questo lo scioglimento nel 2014 fu una vera e propria batosta, quasi un ritorno ad un passato che con grande dolore sembrava essere archiviato, anche se le ferite di quello che è costato tutta la storia del banditismo in Sicilia ed in Italia sono ancora vive e spaccano l'opinione pubblica. Pertanto quando ci siamo ripromessi proprio un'unica, di mettere in campo tutte quelle azioni che avrebbero potuto riportare intanto alla normalità un comune che chiede di essere un normale comune dell'Europa. Ma fare anche meglio della normalità. E fare anche meglio della normalità. Io la interrompo un attimo, sindaco Crisci, il sindaco virtuoso del comune di Montelepre, virtuoso d'Italia, perché dobbiamo fare una piccola pausa sul traffico e poi torniamo, e ci racconterà anche così nel dettaglio, perché uno che ci sta ascoltando dice: sì, va bene, tante belle, ma cosa avete fatto per meritarvi questo premio, per essere additati come i più virtuosi d'Italia? Adesso state ad aspettare, ad ascoltare, perché ce ne sono di cose da raccontare. Vai. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Well, it's been such a long day. I'm kind of tired, bring up. Allora, con Maria Rita Crisci, sindaco di Montelepre, provincia di Palermo, il comune più virtuoso d'Italia. Non ci stascheremo mai di dirlo questa mattina. Allora, tanto per dire, i criteri, no, i parametri che usa l'Associazione dei Comuni Virtuosi per dare questo patente di virtuosità o di virtuosismo sono diversi, tra cui la gestione dell'energia. La gestione dell'energia, dei rifiuti, la mobilità, il risparmio nella gestione della macchina organizzativa del comune e cose di questo genere. Ci sono tante cose, piccole cose che voi avete fatto, tanto per dirne una, proprio nella raccolta differenziata, il vostro comune a che livello ha raggiunto? Allora, il nostro comune nel primo anno è partito, quindi stiamo parlando della fine, dalla fine del 2015, quando sì, avevano avviato i commissari della commissione prefettizia, io ho iniziato il primo dicembre ed era stata avviata a settembre dell'anno 2015, quindi durante tutto il primo anno del mio mandato, alla fine nell'ultimo trimestre abbiamo preso il riconoscimento della Regione Sicilia per essere rientrati nei 24 che avevano raggiunto il 65%, quindi io ho preso circa il 20-25% e in 6-8 mesi, anche diciamo 10, abbiamo raggiunto la fatidica soglia per la quale non si aggravia dell'ecotassa il comune, perché appunto aveva superato. È un risultato incredibile, mezzo miracolo. È un risultato incredibile. E che è migliorato, perché in questo anno 2017 invece abbiamo raggiunto una media di circa il 69 annua, ma con delle punte che hanno superato il 70. Ma molto quindi bene. Grandissimo impegno da parte dei cittadini che hanno diligentemente accolto tutti i suggerimenti che provenivano dall'amministrazione e dalla ditta che gestisce i rifiuti, ma anche grazie ad un bombardamento di messaggi. Cioè ha rotto le scatole abbastanza via i suoi concittadini. Ha fatto bene, perché stiamo in un contesto, bisogna dirlo, in Sicilia, dove basta girarsi intorno e sappiamo che per ingigantire discariche abusive o meno, ma insomma tante volte la raccolta dei rifiuti è una barzelletta, e voi in questo contesto siete al 70%. Complimento. Ma sindaco, non le interessa un posto alla Presidente del Consiglio, che qui fra poco ci sono le elezioni sì, e nessuno sa chi votare? Guarda, ministro dell'ambiente. A questo giro no, rimango a Montelepe. Giro no, però il prossimo magari sì. Giusto. No, le volevo chiedere una cosa, perché ricordiamo che Montelepe è legata anche alla storia del bandito Giuliano, di Salvatore Giuliano. Io ho letto una cosa bellissima, che lei vorrebbe istituire un centro studi sull'epoca relativa appunto a Salvatore Giuliano, e in questa dichiarazione diceva una cosa bellissima: è un passato irrisolto tra rischi di revisionismo, fatti mai accertati e mal documentati, dolore e sensi di colpa. È un tema che ancora spacca, di cui si preferisce non parlare, con il rischio che alle nuove generazioni arrivi una versione anacquata e mitizzata. Montelepre ha scelto la legalità, e la legalità passa per la verità. Punto. Certamente. Mi scusi, ho voluto leggerla perché mi sembrava stupenda, e prego, lascio a lei la parola. Io quest'anno ho partecipato ad un convegno che è stato che si è tenuto a Palazzo Steri, che è la sede dell'Università di Palermo, perché si è tenuto un tristissimo anniversario, e cioè quello dei 70 anni dalla strage di Portella delle Ginestre, che certo, appunto accadde il primo maggio del 47. Mi è sembrato giusto, alla presenza del presidente Grasso e di tutte le più alte cariche dello Stato, ma anche delle forze armate, richiamare l'attenzione, e anche c'erano i sindaci di tutti gli altri comuni coinvolti, quelli che hanno avuto le vittime, quindi Piana degli Albanesi, San Cipirrello, San Giuseppe, e mi è sembrato giusto attirare l'attenzione sul fatto che la verità non si è mai scritta del tutto, e che non ci si può limitare alla verità giudiziaria. Molto vero. Che non abbiamo intenzione di cancellare assolutamente, ma che deve essere corredata con tutti quegli atti ancora secretati, sì, e con il racconto di quello che la popolazione monteleprina subì, da un lato dalla repressione estremamente forte dello Stato, dall'altro dal timore delle azioni che compiva la banda di Giuliano. È sicuramente una storia molto più grande di come ce l'hanno raccontata, e lo ricordiamo, e coinvolge tutta Italia. In realtà non è la questione solo di un bandito. No, assolutamente. Io ci tengo a sottolineare giusto, che si tratta di una tristissima pagina di storia d'Italia, perché da quegli anni la storia d'Italia poi cambiò per quei reflussi sull'autonomia siciliana, cambiò per i rapporti tra i partiti, cambiò anche per l'impronta che da lì si ebbe sull'elettorato, perché se si riesce a collegare, a mettere insieme tutti i fatti storici, ed è solo quello che vogliamo fare. bar, istituendo questo archivio, questo centro studi dal quale noi riteniamo possano partire annualmente delle giornate di studio, darsi degli appuntamenti su tematiche precise a livello internazionale. Giusto, noi studiare fa bene, anche se siamo in vacanza, studiare fa bene a tutti, anzi durante le vacanze bisogna studiare ancora di più. Senta, ma una noi curiosità, siamo dei basta compiti, Ale. Però queste cose vanno studiate, la storia. Una curiosità, so che lei tra le varie cose ha chiesto ai suoi concittadini a un certo punto di restituire reperti archeologici, artistici, trafugati, un po' come si fa spesso, perché voleva arricchire il museo cittadino. È riuscita in questo intento anche? Ci sono riuscita ancora in una piccola parte. Sì. Qualcuno ha risposto timidamente, si può fare di più, si può fare meglio, perché non è facile, sì, ma siamo fiduciosi e comunque un primo grosso ritrovamento fu fatto, diciamo, per così dire trovare, scusate che il gioco di parole non è proprio chiaro, però dico, degli scatoloni sono stati fatti ritrovare ai carabinieri nell'ultimo periodo del commissariamento, proprio perché evidentemente anche tutti gli appelli alla legalità che i commissari sono serviti, avevano fatto sono serviti, ma a me è sembrato bello che lei ci abbia anche solo provato, perché vuol dire crederci, no? Io ci credo, poi ma anche se uno non solo risponde, brava, è questo non lo spirito. Noi la ringraziamo. Grazie. Maria Rita Crisci, sindaco di Montelepre, e le auguriamo anche buon lavoro, veramente complimenti sindaco e buone grazie. Vacanze meritate a grazie, questo punto. Buon Natale e buone vacanze a tutti, grazie. Quindi questa era Montelepre, la storia del comune più virtuoso d'Italia, però è giusto anche ricordare sì, che ci sono anche gli altri che hanno vinto nelle loro categorie e sono comuni abbastanza virtuosi anche loro, non i più virtuosi, ma insomma... No, quindi, lo sono per la propria categoria, anzi magari nella propria categoria lo sono anche più di Montelepre. Però lo vogliamo dire, diciamolo, Cassina dei Pecchi per esempio, Calcinaia in provincia di Pisa, Sestri Levante, Genova, ma poi abbiamo anche Pomezia e Chiari in provincia di Brescia, così abbiamo citato tutto il parterre. Salutiamo gli amici dell'associazione Comuni Virtuosi, ed è molto virtuoso, sembrerebbe anche scegliere durante le vacanze di fare una cosa, diciamo, artistica. No, anzi un regalo artistico. Perché fare una cosa artistica sarebbe stupendo, vai davanti a tua mamma, sì, leggi una poesia e dici questo è il regalo. Invece no, stiamo parlando di veri regali, cioè un po' di materialità ci vuole, qualcosa di concreto, l'ingresso a un museo piuttosto che un tour culturale, e stanno andando molto bene questo tipo di regali. E allora noi vogliamo chiedere un consiglio a qualcuno che se ne intende su dove andare, cosa fare, come farlo soprattutto, e quindi è con noi Francesco Bonami, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ben ritrovato, auguri naturalmente. Bonami, critico d'arte, non si offende, no, se lo chiamiamo critico, perché qui... Ma no. Vedete anche di peggio. Cioè appartenere alla stessa categoria, per esempio, di Vittorio Sgarbi non la turba. Lui dovrebbe essere onorato di appartenere alla mia. Ecco, appunto. E va bene, allora, a proposito di Sgarbi, perché da neo assessore in Sicilia a... beni culturali, insomma, ha rilanciato un po' questa questione, per esempio, dell'apertura dei musei. Lui dice: farò la guida la notte del 31 per tenere aperti i musei. Bisogna dire che lui fa il 31, il problema è capire chi fa tutte le altre notti, perché il 31, esatto, tutti stiamo svegli fino a mezzanotte. È facile, dici te. Se ci sono delle buone bottiglie, direi di sì. Bonami, che dice? Ma no, mi sembra il fatto di tenere i musei aperti. È una bella idea, perché insomma lui, lo so anche che lui vuole fare un monumento ai custodi del museo. Questo è bello. Più che un monumento, fai la giornata dei custodi, che in effetti se lo meritano, perché sono le figure che... Monumento seduto, immagino. Monumento seduto. La battutaccia. I sindacati si oppongono se fa il monumento in piedi. Ma... E credo che sia interessante i musei, sì. I musei in effetti durante le feste dovrebbero essere aperti, perché la gente gli piace, ci va, assolutamente, è vero, però sì, devo anche ricordare una cosa, che a onor del vero i musei sono aperti durante le feste. In Sicilia magari è capitato spesso e volentieri che non lo fossero, quindi è giusta la battaglia di Sgarbi in Sicilia, però se vai agli Uffizi il 26 dicembre trovi aperto, è chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio, quei due giorni lì sono chiusi perché vengono ritenuti, e ecco, poi, su e poi questo la notte, si può discutere, no, l'idea di tenere aperto fino a tardi la sera. In un mondo multietnico con tante religioni si potrebbe tenere anche il 25, perché ci sono signori che arrivano in indù, buddhisti, e poi comunque è festa, esatto, poi comunque è festa, per cui uno può decidere magari di farsi questa gita al benedetto museo, perché no? Quindi se ne può parlare anche di questo. Intanto però, Bonami, novità, tendenze, dove andiamo, che facciamo? Dopo però la pausa, perché adesso ci dobbiamo fermare. Cari ascoltatori, non chiamate al numero verde, perché oggi siamo registrati, quindi se volete scriveteci, per esempio io vi do la mail, così si può fare @radio24.it, una cosa d'antan, però no, vabbè, si può ancora fare. Poi c'è anche l'indirizzo, Viale Monterosa 91, venite, giusto? Qua. 91. Ma non adesso, perché non c'è nessuno. A Milano. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, regali di Natale, gli italiani scelgono tour culturali e libri, benissimo, però facile dire vai agli Uffizi, vai a Brera, vai ai Musei Vaticani durante le feste. Bonami, ci dia un indirizzo, un consiglio, qualcosa di... Ci dica delle indicazioni. Allora, se esatto. Nel mio campo dell'arte contemporanea, della cosa contemporanea, direi di andare. C'è una bellissima mostra al Maxi di Roma, su Beirut, sull'arte del... libanese di Beirut come città, molto bella, curata dal direttore il Ohan Ru, che come dice il nome è cinese. Quella secondo me è una mostra che bisognerebbe andare a vedere. A Milano c'è un'altra mostra secondo me molto bella, che non è propriamente di arte, però è affascinante, dello stilista Rick Cohen, alla Triennale, anche quella secondo me si può andare a vedere, è una bella esperienza. Poi c'è chiaramente il solito Caravaggio, un tanto a chilo. Perché dice così? Non mi faccia così, Bonami, che mi butta un po' giù. Io, per esempio, Caravaggio non lo conosco, tanto siamo visti un paio di volte solamente. Ma fa una trasmissione qua Radio 24, Caravaggio è solo che in un altro orario. È simpaticissimo, comunque c'è lì, è lì. È andato a vedere. Io li voglio. Ma però a parte che ma però non si dice, ho subito dice. Sbagliato, ma le volevo chiedere nel senso che è molto bello che ci dia indicazioni anche di arte contemporanea. Qualche tempo fa abbiamo intervistato questo artista Milot, che è un artista albanese, che però è molto grato all'Italia perché è stato salvato dall'Italia, e giustamente lui diceva si dà tantissima importanza ai morti e a tutti questi artisti, appunto Caravaggio, gli artisti giganteschi, ma invece guardiamo pochissimo ai vivi, agli artisti viventi, ai contemporanei, a quelli che oggi sono in strada con noi e poi creano delle opere. È colpa nostra, è così, o degli artisti così? Che non sono interessati? Beh, insomma, sentite, intanto anche degli artisti antichi, non è che gli diamo tantissima attenzione a tutti, diamo attenzione ai soliti tre, Caravaggio, Leonardo, Michelangelo, sono i soliti tre che si girano il coso. Poi c'è Picasso, Van Gogh, si contano sulle dita di una mano. I vivi è un pochino più difficile stabilire quali rimarranno nella storia, però insomma non so se Milos rimarrà nella storia, però sicuramente bisognerebbe guardare più anche alla contemporaneità, perché è il mondo in cui viviamo, magari non ci piace troppo, ma, però ci dà Bonami, ma l'arte contemporanea, cioè vive nei musei come anche l'arte classica tradizionale, oppure ci sono magari anche dei luoghi, delle accademie, dei ritrovi, cioè dei punti di fermento dove uno può inserirsi e cogliere qualche elemento artistico? L'arte contemporanea vive principalmente nelle gallerie di arte contemporanea, che sono legate più che altro al mercato, però non tutte, vive negli in spazi alternativi che si autofinanzano. Ma se avessimo a disposizione a Napoli, ho visto la fondazione Morra, che è una bellissima fondazione tutta dedicata alle performance, all'arte più performativa, quindi un bellissimo posto anche lì. Sì. Per esempio al MAD di Napoli, per esempio, è un bel posto dove andare, c'è una bellissima mostra che mescola Pompei con l'arte contemporanea, bellissima, quindi anche il MAD è un museo. Ma se uno avesse a disposizione un budget un po' più ampio che non andare al museo, tipo farsi un viaggio però con una meta con dei desideri culturali, cioè lei dove lo manderebbe uno che vuole scoprire un po' di arte contemporanea? In quale città del mondo secondo lei c'è fermento? Beh, secondo me insomma purtroppo sono più o meno le stesse tre città, Londra che c'ha tantissime offerte culturali di tutti i livelli, musei più o meno, spazi più o meno grandi, la solita Parigi che insomma c'è sempre i suoi posti, e chiaramente New York, perché però per esempio se avete ancora più soldi si potrebbe andare anche a Los Angeles, oppure se uno ha una grande curiosità di vedere cose anche meno meno digeribili da voi conosciute, si può andare a Shanghai, si può andare a Seoul. Certo, ma rimaniamo in Italia. Pare che ci sia stato un boom di visitatori dal 2013 al 2016, c'è stato un incasso che è aumentato di 50 milioni, cioè 50 milioni di euro in più di incassi tra il 2013 e il 2016, ovvero quasi più 40%. Quindi stanno molto bene i nostri musei. La riforma Franceschini funziona? Funziona abbastanza, perché la gente, a quanto pare, la gente ha bisogno di andare nei luoghi, di essere insieme, nonostante ormai si comunichi soltanto via Facebook e Instagram, forse va apposta nei luoghi per poi postare le immagini dove è stato, se no tutti pensano che uno sia stato a casa. È vero, e è vero. Quindi fa la brutta figura. Beh, ma per fare quello funziona. Basta scaricarsi le foto, non è che ci sia bisogno per forza di andare nel luogo, a meno che uno non voglia proprio farsi il selfie con dietro Caravaggio. Ma lì è un po' barare, no? Sì, la foto, certo. Però per esempio pensate, la Biennale di Venezia, che quest'anno a detta di critico non era nemmeno eccezionale come mossa, ha fatto ugualmente 615.000 spettatori. Quindi vuol dire che la gente va a vedere nei luoghi proprio per l'idea dell'evento, della cosa, a prescindere anche dalla qualità di quello che c'è dentro. Quindi c'è una grande curiosità, che credo sia un elemento molto positivo, la curiosità, certo, anziché essere dei pecoroni che si va a vedere solo le cose che sono state pubblicizzate magari da Fabio Fazio, no? Tanto per dire una, sì. No, così per dire uno, no? La gente è curiosa e va anche con la propria testa, va nei luoghi a vedere, a scoprire, a esplorare quello che non è stato, non è così pubblicizzato dai mezzi televisivi, non è così mainstream, però noi intanto siamo contenti anche che vadano a vedere le cose più mainstream o forse pubblicizzate da Fazio, e poi credo che lentamente si andrà a vedere anche delle cose più di nicchia, più esatto. Senta, io poi c'ho un tarlo, no? Quando uno esce e va a vedere qualcosa legato alla cultura, all'arte, è sempre bello. Quindi poi ognuno ha i propri gusti, e quindi è bene che assolutamente io però Bonami ho questa specie di tarlo di cosa che mi dentro che mi rode, no? Cioè io mi sembra sempre che andare al museo è una cosa bellissima, andare a vedere le mostre, però è una cosa come diceva un po' Milot, no? Citiamo ancora il nostro amico albanese, che sa di una cosa che guarda al passato, una cosa ferma, e invece a volte sembra quasi che nell'ambito del consumo la logica dell'evento, cioè sembra più artistica la performance della Apple che lancia il nuovo cellulare, tutti che entrano dentro, oppure i centri commerciali che per solo quel giorno fanno un'iniziativa, tutti che vanno, affluiscono perché pensano di vivere un'esperienza nuova, no? Una cosa particolare, piuttosto che andare al museo così tic tic tic tic a vedere il quadro appeso, cioè in questo senso, no? L'arte qual oggi è qual è il tarlo? Il tarlo è cioè dove sta la performance artistica? Sta nell'andare al museo a vedere il quadro appeso la parete, oppure manca la ricerca, manca la sensazione di partecipare a qualcosa, di vivere un evento? Io credo che sia la necessità, che abbiamo perduto, uso un parolone, di convivialità. noi ecco. abbiamo bisogno di essere in luoghi conviviali e questo è un po', certo c'è chi critica, che dice che i musei sono diventati appunto come dei centri commerciali o come dei negozi di telefonini, ma in realtà è il bisogno di convivialità, che poi avvenga nel centro commerciale oppure nel museo, vabbè, quello è noi che lavoriamo, io che lavoro nel campo dell'arte preferisco che venga del museo, però non si può pretendere, no? Giustissimo. No, quello che vende le macchine preferisce che tutti vadano a vedere nel concessionario. È giustissimo. Macchine. La differenza sta nel prezzo in questo caso, ma insomma. Però il bello è che la gente, nonostante tutto, non vuole stare da sola e ha bisogno di condividere le proprie esperienze con altri, e questo secondo me è una cosa bella, nel senso che non ci si vuole isolare, no? Un'ultima cosa, no? Iniziative gratis ne ha. Beh, io mi sono segnato questa è bella, non è gratis, però in Lombardia tu fai l'abbonamento ai musei, 45 euro, puoi andare a vedere tutti i musei tutto l'anno sempre, è un bel regalo, no, da fare a Natale, che uno va con calma a vedersi il museo, anche 4 volte vai a Brera a quel punto. È bellissimo. Perché infatti bisogna, i musei vivono anche si pensa sempre al turismo, ovvero sia a quelli che arrivano mordi e fuggi a Venezia, ma bisogna pensare anche alle persone che vivono nelle città. Va bene, Bonami, grazie. Noi siamo qua, cari ascoltatori, se volete per esempio segnalarci, no? Ecco, perché io conosco questa, noi conosciamo questa della Lombardia perché qua ci viviamo, però sarebbe bello farle diventare virali, no? Queste cose, queste notizie che a volte sono anche un po' segrete, lo sai che puoi andare gratis. È vero, io, nelle cose. Cioè, io non la nessuno. Sapevo questa dei 45, questa è bellissimo, un bellissimo regalo. Quindi se ne conoscete altre nelle vostre regioni, iniziative di musei gratis, ma soprattutto abbonamenti che vi consentono di andarci nelle ore più strane, quando volete voi, solo voi, potete scrivercele sui nostri social, Facebook si può fare / Radio 24 e poi e Twitter / si può fare 24 oppure sui nostri. A tra poco. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Io quest'anno non l'ho fatto. Non l'hai fatto? Non l'ho mai fatto. Tutto l'anno non l'hai fatto? Non l'ho fatto. Ma insomma, malissimo. Parliamo di albero? No, parliamo di presepe. Parliamo di presepe. Io non l'ho fatto. Tu l'hai fatto, Carlo? Cioè, no, io no, io ho fatto l'albero. Ma il presepe non lo faccio. Quindi non siamo le persone più adatte a parlare del presepe più grande d'Italia, forse. Come no? Anche perché il più grande d'Italia forse è più facile farlo, perché ti invito a casa e ti dico: carissimo, quest'anno tu fai Giuseppe. Comunque, il più grande presepe d'Italia si trova a Viterbo e con noi Andrea Baffo, direttore di Caffeina. Buongiorno e auguri. Buongiorno a voi. Buongiorno. Che siete voi di Caffeina, Fondazione Caffeina, gli organizzatori di questo che è diventato in 2 anni il presepe più... Chi era prima il presepe? A chi avete tolto? No, ma un momento, però spieghiamo Caffeina, perché Caffeina in realtà è un importante festival estivo. Io lo conosco perché ci sono stato a presentare il mio libro 2 anni fa, credo, l'anno scorso. E questa è la coda di questo festival ed è la versione natalizia, giusto? Esattamente, è diciamo un altro prodotto, è il village natalizio e quindi di intrattenimento turistico e con diciamo incursioni culturali come questo presepe. Ma siete amici del festival estivo o siete in contrapposizione? Siete sempre voi? Siamo gli stessi soggetti. Perfetto. Che utilizzano entrambe le realtà. Perfetto. E arriviamo a quello che stava dicendo Alessio, avete il presepe più grande del mondo. Sì, in questo momento candidato al Guinness, giusto, in attesa di ricevere la formalità, ma insomma è abbastanza grande per essere insomma non propriamente casalingo. E quanto è grande? Allora, è poco meno di 900 metri quadrati il presepe. E sì, quanto sono 900 metri quadrati, tanto per capire cosa sono? Un campo di calcio? No, campo di calcio. Su questo sono molto poco ferrato. Immaginatevi un percorso che è fatto da 83 statue, oltre 150 animali, ma il tutto a grandezza naturale. Quindi non è un presepe che si guarda a distanza, ma ci si entra dentro, ci si riconosce. Esattamente. E ci si rimane, nel senso che anche gli spettatori fanno parte del presepe in qualche modo, se le statue sono a grandezza naturale. Sono i pellegrini. Sì, esattamente. Sono i pellegrini. Addirittura noi abbiamo dei ragazzi che ovviamente si occupano della custodia e di no, verificare che tutto vada liscio, che spesso vengono confusi con le statue, quindi molto divertente, cioè, perché insomma non si capisce il vero dal verosimile. E c'è anche qualcuno che ha cercato di rapinare i tre magi? Sì, abbiamo avuto esattamente questo tipo di problematica, insomma, è un classico. È un classico da presepe la rapina ai re magi, assolutamente. Non c'è dubbio. Oro, incenso e birra, direi, così, giusto per rimanere in spirito. Giusto per abbassare un po' il livello. Però diamo le coordinate, no? Diamo le coordinate, dove siete? Cioè, dove vi si trova? Allora, noi siamo a Viterbo, nel centro storico medievale della città. Con questo centro storico intatto, sostanzialmente antichissimo, bellissimo, sì, uno dei migliori conservati d'Italia, sì, sì, praticamente sì, a questo vanto la nostra città. In questo centro storico abbiamo incastonato 20 attrazioni natalizie unite da un mercato di Natale lungo le vie, quindi si va dalle più ovviamente laiche case di Babbo Natale, la posta dei bambini, un villaggio degli elfi gigante che è una delle novità, ma insomma la particolarità è che abbiamo l'opportunità, il privilegio assoluto di utilizzare il Palazzo dei Papi, palazzo simbolo della città, per realizzare questo presepe di cui stiamo parlando. Quindi perché anche è all'interno del palazzo? Esattamente, e il luogo è prestigioso, dobbiamo ringraziare la curia vescovile. Sì, un palazzo meraviglioso, una piazzetta bellissima, quella lì di dove c'è il Palazzo dei Papi a Viterbo, un posto straordinario. Esatto. Ma senta, ma il presepe, no? Che tipo di, perché se ne parla molto anche ogni anno naturalmente, farlo, non farlo, come fai, sbagli, se non lo fai perché rinneghi le tue radici, se lo fai nelle scuole perché rischi di offendere le altre regioni, ma a quando è stato fatto, quando risale, no, nella storia, il primo presepe? Guardi, su questo mi trovo molto poco ferrato sulla storia. E allora glielo dico io, perché io mi sono guardato. Io dirò che è vero. È vero. Allora, no, non lo so, io non ne so niente di questa storia, però pare che la prima rappresentazione tridimensionale, perché diciamo di affreschi ce ne sono sempre stati tanti, risale a San Francesco d'Assisi. 1200, vi do questa notizia. Adesso ci arriveranno messaggi, insulti. Non è vero, perché ce n'era prima un altro. Ci saranno le controstorie, no, certo. Non c'è dubbio. Però, Baffo, a questo forse può rispondere anche lei. È una questione di religione o di cultura, no? Perché si discute molto. Nel senso che molti, per esempio, lo fanno in molti, anche se non sono magari credenti o addirittura, oppure semplicemente sono cattolici non praticanti, perché si dice fa parte della nostra cultura. È così? Non c'è dubbio, io credo che siano vere entrambe, nel senso che poi, come spesso capita in una storia di un paese, di un grande paese come il nostro, che è stato centrale, la tradizione e la fede e la cultura sono tre oggetti inestricabili rispetto a questa tradizione. Come dire, non è che la tradizione è in minore, non vedo una gerarchia tra questi tre aspetti. A me sembra veramente bello immaginare che ognuno veda dentro questa tradizione, questo gesto, qualcosa che ritiene di voler vedere, ma insomma non li ritengo gerarchici. Penso ai grandi presepi napoletani, quella grande storia, penso a chi lo fa per la fede, insomma mi sembra veramente nobile come storia. Ma se togliamo l'aspetto religioso, no, cosa ci possiamo vedere, mi sono domandato, in questo presepe? Una rappresentazione che riguarda una famiglia, il concetto della famiglia, perché in fondo quella era una famiglia nascente con un figlio che stava nascendo, o anche, visto che la narrazione dei Vangeli ci racconta di un viaggio, no? E quindi di un luogo di fortuna, di un luogo di riparo, il concetto del viaggio, il concetto della migrazione anche, questo, l'accoglienza. Esatto, la migrazione, l'accoglienza, il concetto del tenere lontano l'altro da sé, del non accogliere. Come dire, a me sembra veramente una storia che si rincorre, no? Quella di quella di avere, ecco, nel nostro presepe che è davvero. Ma voi come lo avete inscenato questo presepe? Cioè, adesso noi chiudiamo gli occhi e cerchiamo di immaginarci. Bello, no? Cosa, bello. Cosa vediamo? Allora, voi vedete le scene di quello che accadeva in una cittadina di un largo medioevo. È come se noi avessimo ripreso il medioevo delle vie e rimesso dentro queste sale meravigliose del Palazzo dei Papi. Per cui ci sono scene di campagna, si entra proprio fisicamente davvero dentro un palazzo nobile, si osserva la stanza della servitù, la stanza dei ricchi, si esce nel loro giardino, si attraversa un grande mercato, l'abitato, si vive un'altra prospettiva di campagna, e quindi una città che vive ordinariamente, in cui c'è posto per tutti meno che per la natività, che addirittura quindi dovranno, come la tradizione ci insegna, trovare alloggio di fortuna all'interno di una stalla. Quindi uno spaccato storico, non storiografico, ma insomma sicuramente storico nel nostro caso, di una città che vive e mentre vive esclude qualcuno, no, dalla sua vita. E come, ma la scena clou raccontato così è molto preciso. E la scena clou, quindi, non come l'avete rappresentata o non rappresentata? La scena clou intendo dalla natività. L'abbiamo rappresentata esattamente facendo entrare gli spettatori, e questa è una particolarità di cui siamo fieri, all'interno vera della stalla. Quindi non c'è una distanza tra l'osservato e l'osservatore, cioè si entra dentro la natività esattamente in una sala particolarissima che è un pezzo delle scuderie del Palazzo dei Papi, perché ripeto, il luogo gioca molto del fascino, ovviamente. Certo, senza quel palazzo era più difficile ricostruire tutto. Non c'è dubbio, è del 1257 l'edificio, quindi Viterbo per ben 9 papi hanno avuto residenza a Viterbo, quindi è stata sede papale, quindi quel luogo è una magia, e la natività diventa un luogo in cui è l'unico spazio in cui non esiste questo alternarsi del giorno e la notte, che è, diciamo, la tecnologia che si aggiunge, non c'è musica di sottofondo, c'è un silenzio e si sta dentro, e chi vuole contempla, chi vuole vedere altro curiosa, cioè ognuno insomma ovviamente declina, no, in base a quello che vuole. Certo. Quindi ci sono tutte queste scene più caotiche di vita vera con musica, e poi si arriva in questo luogo del silenzio dove nasce Gesù. Esattamente, guardi, da quello che mi dicono e da quello dalle critiche, insomma ormai Facebook, le recensioni eccetera, stiamo riuscendo in quello che volevamo, cioè la parte finale è qualcosa di fermo, dove l'animo si ferma e c'è contemplazione. Certo, bello. Ci sembra molto. Volevo aggiungere che, guardate, il lavoro è un lavoro fatto da febbraio di quest'anno, perché abbiamo creato un nuovo presepe, ovviamente ogni anno viene rinnovato, da architetti, scenografi, hanno lavorato dei decoratori, falegnami. Se non vincete le Guinness dei primati come presepe più grande del mondo, potete vincere quello più lungo da costruire al mondo, perché sì, da febbraio, esatto. Complimenti. C'è un lavoro dietro, c'è un grande lavoro. Ma avete dei competitor? Cioè, ci sono altri musei, esatto, grandi, e temete di perdere il record, oppure ci siete solo voi? Guardi, al momento per dimensioni e per l'utilizzo della grandezza in scala 1-1, quindi sì, di essere in scala naturale, non abbiamo dei competitor che io sappia, ma insomma. Allora, straordinario. E quando si saprà chi si è entrato nel Guinness dei primati? Noi siamo in attesa della loro certificazione o della loro bocciatura. Immaginate che arriverà qualcuno, certo, camuffato da pastorello, in realtà è un verificatore del Guinness che deve decretare se siete degni o no di entrare, esatto, magari con una cornamusa in braccio, no, per camuffarsi, esatto, ancora di più. È perfetto, perfetto. Grazie Andrea Baffo. Posso dire una cosa solo, certo, perché per farvi capire la follia maniacale che ci pervade. Sì. Un'altra particolarità legata al fatto che tutti gli orti, tutti i mestieri, il fornaio, tutte le materie sono vere, per cui ogni 2 giorni, ogni 3 giorni degli addetti vanno a cambiarle e a sostituire l'insalata, certo, le spezie, l'aglio, cioè è tutto vero, è una faccenda di odori, di sensazioni, quindi su quello è una cosa che dura 50 giorni, che prevede ricambi di materie, è follia ma è cura. Ma è così, è follia ma è così. Ha fatto benissimo a precisarlo, perché è così che cambia, nel senso che non sono statue, ma è una vera installazione dove uno sente gli odori, i sapori e i rumori. Si chiama Caffeina Christmas Village e lo trovate fino al 7 di gennaio a Viterbo. Grazie Andrea Baffo per essere stato con noi. Grazie mille. Tutto, auguri a tutti cari ascoltatori, e tutto per questa parte della puntata, perché naturalmente restiamo qua con un meglio di tra pochissimo. marzo 2017. Ci collegheremo più volte con Londra per avere gli aggiornamenti. Quindi arriva questo attentato 12 anni dopo l'attacco kamikaze. Maggio 2017. In diretta. Ecco l'esito. Emmanuel Macron viene indicato presidente della Repubblica francese con il 65%, naturalmente. Giugno 2017. Come canta nelle sue canzoni Ariana Grande. Un concerto a favore delle famiglie delle 22 vittime dell'attentato del 22 maggio che ha causato circa 60 feriti. Anche quest'anno vi abbiamo raccontato il mondo, tutti i giorni. E continueremo a farlo nel 2018 con la nostra serietà, autorevolezza, passione e leggerezza. Perché il mondo, oltre ad essere vissuto, va soprattutto capito. Buone feste da Radio 24. Sono le 9. GR 24, il sole 24 ore. Fine legislatura, sì alla legge di bilancio, no allo ius soli, siamo arrivati troppo tardi, dice Minniti. Un atto di guerra a Pyongyang, bolla così le nuove sanzioni del Palazzo di Vetro. Calcio, vincono Napoli e Juve, Natale amaro per Inter e Milan. Buongiorno dalla redazione da Anna Marino. Con l'approvazione della legge di bilancio si chiude di fatto la legislatura. Il Senato ha affossato lo ius soli perché manca il numero legale. La nuova seduta sarà il 9 gennaio. Esulta la Lega, il DDL è morto e sepolto, afferma Calderoli. I radicali chiedono il rinvio dello scioglimento delle Camere, ma è probabile che il Presidente della Repubblica Mattarella firmi il decreto il 29, subito dopo il discorso di fine anno del Premier Paolo Gentiloni. Elisabetta Fiorito ha chiesto la ministra Anna Finocchiaro un bilancio della legislatura che si sta per chiudere. È stato un anno molto fruttuoso, abbiamo portato a compimento riforme importantissime che hanno riguardato i diritti civili, che hanno riguardato i diritti sociali degli italiani, abbiamo stabilizzato un processo di crescita. Io credo che possiamo davvero ritenerci soddisfatti del lavoro fatto. Certo, molto, molto, molto altro resta ancora da fare, resta nelle mani della prossima legislatura, del prossimo governo. C'è un po' d'amarezza per lo ius soli? Certo. A proposito di ius soli, siamo arrivati troppo tardi, afferma oggi dalle colonne di Repubblica il ministro Marco Minniti. È una riforma necessaria che deve restare all'ordine del giorno del paese all'indomani dell'arrivo in Italia di 162 migranti grazie ai corridoi umanitari. Il titolare dell'interno dice che solo dopo un lungo lavoro è stato possibile attivarli, è stato necessario dimostrarsi credibili e agire sul controllo dei confini. Il prossimo anno, secondo Minniti, fino a 10.000 persone potranno raggiungere l'Europa senza rischi. All'estero continua a salire il bilancio delle vittime nelle Filippine dopo il passaggio della tempesta tropicale che ha investito il sud del paese. Secondo le autorità, i morti accertati sono adesso 200, travolti dal fango e dalle alluvioni. Squadre di salvataggio sono al lavoro alla ricerca dei dispersi, stimati in 150, circa 70.000 gli sfollati. Un atto di guerra. Così la Corea del Nord ha bollato le nuove sanzioni imposte dall'ONU, la decisione presa all'unanimità venerdì scorso in risposta ai test missilistici nordcoreani del 29 novembre, blocca il 90% dei prodotti petroliferi raffinati che Pyongyang importa e colpisce le rimesse dei lavoratori dall'estero perché prevede l'obbligo di rimpatriarli entro 24 mesi. Consolideremo ulteriormente il nostro deterrente nucleare, scrive il ministro degli esteri nordcoreano, per sradicare radicalmente le minacce nucleari degli Stati Uniti. Torniamo in Italia. Il tantam è partito dai social network. In tanti ad Alessandria, indossando un borsalino, si sono dati appuntamento davanti allo storico negozio del centro città per esprimere solidarietà ai lavoratori della storica azienda di cappelli fallita nei giorni scorsi. C'era anche il sindaco Gianfranco Cuttica. Vedo la città intera che si unisce e si riconosce in Borsalino e in questa rivendicazione importante affinché marchio e fabbriche e produzione rimangano ad Alessandria. Calcio, nella penultima giornata del girone di andata il Napoli batte in rimonta la Sampdoria per 3-2, si avvicina allo scudetto d'inverno, la rivale per il titolo è la Juve che nello scontro al vertice batte la Roma per 1-0, Natale triste per le milanesi, a Reggio Emilia 1-0 del Sassuolo all'Inter, secondo KO di fila per i nerazzurri e prima mini crisi di Spalletti, il Milan crolla per 0-2 in casa con l'Atalanta, ottava sconfitta dei rossoneri dall'inizio del campionato, sentiamo Gattuso. In questo momento noi dobbiamo andare alla ricerca di non piangerci addosso e di stare uniti e sicuramente da parte mia e da parte dei miei giocatori c'è la consapevolezza che tutto quello che stiamo facendo non basta, però io penso che c'è il problema più grande è che tanti di questi giocatori non si aspettavano una difficoltà, quella che stiamo vivendo adesso da un po' di tempo a questa parte. Ed è tutto, prossima edizione alle ore 10. No, mamma, basta con questi open day. Decidi tu che scuola devo fare. Io non lo so cosa mi piace studiare, ok? E invece è bene che i nostri ragazzi lo scoprano cosa piace loro studiare, perché è arrivato il momento di scegliere la scuola superiore. Come districarsi allora fra licei, tecnici e professionali, fra open day, consigli orientativi e l'immancabile passaparola fra genitori sui WhatsApp di classe? Sono Maria Piera Ceci e il 30 dicembre alle 11 vi darò una mano insieme ad esperti, presidi ed insegnanti nello speciale Scuola, quale scelta per i nostri figli? Sempre su Radio 24. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Ben ritrovati, anche oggi vi teniamo compagnia con una puntata nella quale, a partire da adesso, vi facciamo risentire alcune delle migliori storie del passato. Il best of. Del passato presente, però, del passato recente. Cominciamo con i Mastri Cartai, una storia che viene dalla Lombardia dove si tenta di far rinascere un antico mestiere. E poi andiamo a Fashion at Cost Roads, che è il rapporto di Greenpeace che raccoglie quasi 400 esempi di alternative al modello corrente di industria della moda, perché in realtà l'industria della moda consuma troppe risorse, ce ne parla Chiara Campioni. E poi il rapporto sui rifiuti, sulla gestione dei rifiuti, un problema che sta diventando una opportunità grazie alla raccolta differenziata. L'Italia sta andando benissimo, abbiamo dei punti da segnare. E alla fine la bodycam contro i furbetti del biglietto, si tratta di una telecamera applicata sulle divise del personale di verifica così che possano monitorare la situazione sui veicoli. Ce ne parla Vanni Bulgarelli, presidente SETA. Stateci ad ascoltare. Un si può fare dei nostri, proprio una storia, una bella storia. 2 anni fa questo ragazzo ha aperto un'attività a Toscolano Maderno sul lago di Garda, che dovete sapere, per chi non lo sapesse, che è la valle delle cartiere. Fin dal 1300 si produceva carta di tutti i tipi. Poi queste cartiere sono chiuse negli anni 60, quasi tutte. All'inizio, sì, negli e anni 60. Adesso però c'è chi ha pensato, nell'era di internet, dei social network, del touchscreen, degli smartphone, di riutilizzare e di rivalorizzare in qualche modo questo distretto della carta. Filippo Cantoni, fondatore di Toscolano, benvenuto, buongiorno Filippo. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo. Buongiorno. Allora, complimenti, cosa ci fate con questa carta? Perché riprodurre carta di qualità? Per fare cosa, Filippo? Ma intanto perché l'Italia è un paese di produttori, quindi noi siamo capaci di fare con le nostre mani e nel mondo nessuno può imitare il Made in Italy. Quindi questa è la base che ci ha motivato a scoprire

Vincenzo Favorino, coordinatore del Comitato Scientifico Zero Rifiuti Europe e esperto ambientale della Scuola Agraria del Parco di Monza. Enzo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato. E anche con il sindaco di Adelfia, Giuseppe Cosola, perfetto. Buongiorno. Che buongiorno. Ha cominciato a smultazzare con tanto di foto esposte in giro per il suo comune, chi? Proprio quelli che fanno questa cosa vigliacca e terribile di abbandonare i rifiuti. Anche qui inventando un bellissimo nome, sì. Però. Perché ce lo facciamo dire dal sindaco. L'Urbacchius. E qui la fantasia il vince. Il perfetto pugliese è uno straordinario. Certo. Quante volte ha fatto, sindaco, intanto? Abbiamo più di 100 accertamenti. Ma spieghiamo però. Come questo Urdacchione, che in realtà sono delle foto, che è quello che stiamo chiedendo anche ai nostri ascoltatori adesso, ma il sindaco l'ha fatto molto prima, chiedendo delle foto che ritraggano anche il colpevole, giusto? Anche il colpevole, perché la macchina con cui di solito si va a scaricare la targa, la targhetta da cui si può dedurre. Dopodiché vengono pubblicati una sorta di pubblica gogna in cui vengono pubblicate queste foto. Con questo L'Urdacchion scritto bello grande e poi bravo, hai vinto una multa di 600 euro. Ho detto tutto giusto? Esatto. Ma ce lo racconti anche lei se ci sono altre... No, praticamente abbiamo deciso di ricorrere a questo metodo, sì, diciamo una gogna pubblica, perché si è arrivato a un livello di abbandono troppo alto, soprattutto nelle campagne. Allora abbiamo deciso di installare queste fotocamere con cui riusciamo poi a pizzicare questi urdacchioni che abbandonano di tutto in campagna. Nelle campagne trovavamo di tutto, trovavamo lavandini, letti, quindi abbiamo deciso di intraprendere questa una follia. Devo dire la domanda, sindaco, è di rito, però gliela faccio, è una domanda retorica. Voi avete l'isola ecologica dove poter portare tutto, ecco, sì. Quindi l'alternativa c'è, perché fino a qualche anno fa magari poteva essere difficile andare non nel comune a fianco. Non solo abbiamo l'isola ecologica, ma è possibile chiamare gli operatori che vengono a prendere direttamente a casa l'eventuale rifiuto. Ma quindi veramente non si capisce questo atteggiamento, nel senso che se già ti devi mettere in macchina, decidi di caricare i tuoi due lavandini e una lavatrice, di andare in un posto sperduto dove speri che nessuno ti veda per buttarli di nascosto e dare fastidio a tutto il mondo, quando puoi andare all'isola ecologica e fare la stessa fatica, o sbaglio? Bravissimo. Perché secondo lei accade? C'è un motivo? Ci può essere un motivo? Come? Ci può essere un motivo per cui invece accade? È inspiegabile. Ecco perché noi continuiamo a ma costa ma portarli all'isola ecologica costa? Portare no, non costa nulla, no. E allora veramente, L'Urdacchion, fate benissimo. veramente, intervistiamole queste persone, chiediamoli come mai, perché forse sono dei malati. Intanto chiediamole, sindaco, le pagano le multe poi? Sì, le pagano ovviamente. Sì. Vabbè. E quindi insomma, piano piano, immagino che a suono di 600 euro per volta cambieranno. Avremo un'isola ecologica straordinaria. Per l'abbandono, soprattutto in campagna, ma noi ci concentriamo non soltanto nell'abbandono, diciamo, delle campagne, ma anche nel piccolo abbandono in paese, la piccola busta, dove ovviamente anche quello è un problema che, diciamo, inspiegabile, quelli che non riescono poi a farla differenziata e magari trovare il facile un metodo di mettere tutto nella busta e lasciarlo all'angolo magari del vicino di casa, non della propria casa ovviamente. Enzo Favorino, allora qui si dice, no, rapporto ISPRA, oltre alla questione dei rifiuti abbandonati, gravissima, c'è la questione di una crescita un po', da un po' di tempo a questa parte della quantità di rifiuti prodotti, rifiuti pro capite. Si dice più rifiuti più ripresa economica, dobbiamo essere soddisfatti? Della ripresa economica direi di sì, anche se noi, Alessio, Carlo, saluto anche il sindaco di Adelfia, voi sapete che noi da sempre puntiamo a quello che noi chiamiamo il disaccoppiamento, cioè avere crescita economica senza che questo implichi una crescita nell'uso delle risorse nella produzione di scarti. È un po' un gesto da passato, giustamente, nel senso che dovremmo riuscire ad avere ripresa economica senza l'aumento dei rifiuti, che è folle, diciamo, in quest'idea di economia circolare. Non dovrebbe essere così. Meccanismi? Sì. Allora, certo. Ad esempio, superare l'obsolescenza programmata. perché ad oggi molto del valore aggiunto e della crescita del PIL che abbiamo è perché ogni due anni o spesso anche meno siamo costretti a cambiare gli apparecchi che abbiamo in mano, perché sappiamo che poi i nuovi sistemi operativi non girano bene sui nuovi apparecchi e operano sopra, no? Sapete, i personaggi anche di Crozza, i meccanismi di marketing e quant'altro che stanno attorno a questa cosa, ti costringono a comprare il nuovo apparecchio. Superando l'obsolescenza programmata invece si potrebbe far transitare molto del valore aggiunto attorno alla riprogettazione, all'ammodernamento degli stessi apparecchi, e questo consentirebbe di fare valore aggiunto, di creare posti di lavoro, di far girare l'economia senza aumentare l'uso delle risorse e la produzione certo, di scarti. Per intenderci, invece di dover cambiare il telefonino, avere il fatto che hai un costo per cui tu lo rigeneri, lo migliori, lo rendi che possa sul quale possano girare qualunque tipo di app, paghi, quindi in realtà crei anche posti di lavoro, ma non devi ogni volta buttare il supporto nel cestino. Perfetto, giusto? Carlo, mandaci un curriculum, Carlo, hai capito perfettamente. Guarda che io lo mando volentieri. Sono in attesa. Allora, intanto c'è un ascoltatore che scrive, e la giro al sindaco di Adelfia, la gettano in campagna perché non pagano la TARI, la tassa, che è un requisito per gettare le cose in isola ecologica. È un'ipotesi questa? C'è gente che evade proprio la tassa. Ci può stare, però in realtà quelli che abbiamo pizzicato, ad esempio, eccetto qualche straniero, in realtà paga regolarmente la TARI, quindi diciamo continua a rimanere inspiegabile. E noi continuiamo a cercare di incastrarli questi vigliacchi. Forse sono semplicemente stupidissimi. Molto. Potrebbe ipotizzare. Enzo Favorino, qual è oggi, alcune cose le hai dette, ma insomma la maggiore criticità, il maggiore limite, il maggiore ostacolo che incontrate voi che siete partiti tanti anni fa con questa idea che sembrava una follia, no? Di zero rifiuti, l'economia circolare, adesso invece è diventato tutto molto mainstream, no? Affinché queste buone pratiche, che ci sono in Italia tante, diventino totali, cioè che siano tutti ad adottarle, tutti i comuni. Ma diciamo che stiamo stanando gli ultimi giapponesi nella giungla, dai Alessio, ci stiamo riuscendo, cioè in realtà i numeri principali di sistema su cui ci piace porre l'accento nella lettura di questo rapporto nazionale ISPRA sono altri, cioè la crescita continua della raccolta differenziata e per esempio, dacci un po' di questi numeri che ci esaltiamo. Ecco, uno su tutti, l'Italia come media nazionale ha finalmente superato il 50% di raccolta differenziata, siamo al 52,5%. Tra l'altro, avendo diffuso queste informazioni nelle nostre reti internazionali, siamo stati contattati da una grossa società di consulenza che aiuta anche la Commissione europea, l'UNEP, il Programma ambientale delle Nazioni Unite, nella preparazione dei report strategici globali. Stavano stilando una classifica dei 10 paesi mondiali che hanno più raccolta differenziata e hanno detto, in base a questi numeri, l'Italia ci entra a pieno diritto. Alta classifica. Però ricordiamoci che noi veniamo, alta classifica, però fino a quanti anni fa eravamo molto molto più bassi, così fa ancora più effetto. Non bisogna andare molto indietro. Poi noi però sapete che siamo amanti dei dettagli e sapete che l'Italia è quel grandioso contenitore, voi siete bravissimi a descriverlo, del meglio e del peggio. Anche in questo caso non si fa eccezione, perché la media nazionale del 52,5% è data da una serie di situazioni che ancora rappresentano forti criticità, in particolare la Sicilia, ma questo non significa tutto il sud, perché la Campania è sopra il 50%, la Sardegna ha avuto un incremento clamoroso ed è ormai al 60% di raccolta differenziata, con alcune province sopra il 70%, Oristano ed Ogliastra. La Sicilia, hai citato la Sicilia, in Sicilia si vota, io non ho sentito nessuno parlare di questo tema, forse perché non è un tema su cui si prendono voti, ma invece ho la sensazione che sempre di più tutti si stiano interessando a questa cosa, perché quando comincia ad arrivare la raccolta porta a porta sotto casa, quando cominci a vedere che paghi la tassa sui rifiuti, che fra l'altro in molte città è anche aumentata, ma il servizio migliora e la città è meno sporca, forse questa cosa comincia a entrare anche proprio nella pelle di ognuno di noi. Assolutamente sì, e ci sono i casi nella Sicilia stessa, cioè il fatto che la Sicilia stia attualmente attorno al 20-25% di raccolta differenziata, questo dovrebbe essere il dato consolidato sul 2017, il rapporto ISPRA si riferisce ai dati 2016, nel 2017 la Sicilia dovrebbe andare verso il 25%. Pensa se la Sicilia supererà il 50% cosa succederà? A quel punto l'Italia stessa andrà verso il 60% perché sono 5 milioni. Noi abbiamo già, essendo avanti dei dettagli, abbiamo già i nostri benchmark per la virtù, ci sono alcune province, ben quattro, che sono abbondantemente sopra l'80%. Ma posso chiedere una cosa? Perché non vorrei smorzare l'entusiasmo, però in realtà il nostro obiettivo non era il 65% ed era fissato al 2012, quindi abbiamo superato il 50%, però in realtà siamo un po' in ritardo, o sbaglio? Siamo un po' in ritardo rispetto all'obiettivo del 2012. L'Unione Europea ha comunque un obiettivo del 50% di recupero materia al 2020. Ah. Adesso si sta discutendo se fissare il 65 o il 70% al 2030. Diciamo che siamo in rotta per rispettare entrambi gli obiettivi, sia il 50% di recupero materia, non di raccolta differenziata, quindi bisognerà eliminare gli scarti del riciclo dal computo al 2020, e quello del 65-70% di recupero materia al 2030. Come stiamo messi bene, però, se posso, ricordiamoci sempre, noi lo ricordiamo a quelli che fanno le politiche di settore, quelli sono gli obiettivi minimi, non quelli massimi. Certo, si può fare di più. Di rifiuti zero, ci piace definirci sempre felici ma mai soddisfatti, quindi sognatori e idealisti. Arrivare all'80. Enzo, però come stiamo sull'altro fronte, cioè quello del cosa accade dopo la raccolta differenziata, cioè questi materiali differenziati entrano, abbiamo saputo quest'estate che c'è stato un tema sulla plastica, per esempio, una discussione su quanto si riusciva effettivamente a rimettere in circolo, quanto entrano nell'economia circolare, quanto tornano a essere risorsa veramente questi materiali? Bellissima domanda. Sì, avete detto bene, prendendolo dal versante giusto, abbiamo avuto una crisi sul cosiddetto plasmix quest'estate. Il plasmix è lo scarto plastico a file linea nelle piattaforme di selezione della plastica. Siamo un po' scoraggiati sentendo queste notizie, invece? Però. Allora, tutti i numeri hanno una loro dimensione e ci dicono una verità. Se ci si concentra solamente sulla plastica, effettivamente è brutto sapere che c'è una percentuale neanche irrilevante di plasmix che trova difficoltà di collocazione. Poi voi sapete che noi come Reti Rifiuti Zero, prendendoci la responsabilità di quello che viene determinato dai processi che noi andiamo a insediare sul territorio, stiamo lavorando sulle tecnologie per andare a recuperare anche il plasmix con le tecnologie di densificazione, estrusione, sapete, del progetto Ecopulplast fatto dal centro di ricerca Rifiuti Zero di Capannori. No, noi siamo tutti in piedi all'ascolto, non sappiamo niente. È domenica mattina e sono troppe. Chiudo l'inciso. Quindi noi stiamo lavorando per risolvere il problema del plasmix. Cioè dare una nuova vita a questa plastica che altrimenti... Però se posso, il contributo della plastica al totale della raccolta differenziata è stato in realtà quest'anno solamente del 7% circa. Ok, quindi i contributi provengono dalla frazione organica, che ormai è il fattore trainante dell'aumento delle raccolte differenziate. Appena si introduce la separazione dell'organico, i dati schizzano. Al 70-80% di raccolta differenziata. E la carta. Su queste due frazioni grossi problemi di collocamento attualmente non ce ne sono. Sulla plastica c'è un qualche problema, noi ci stiamo lavorando, ma è un problema che si applica a una percentuale minore, importante comunque, perché qualunque bottiglia salvata da un inceneritore o da una discarica è una bottiglia benedetta. Va bene, noi intanto sì, non è una difficoltà in grado di, soprattutto perché per noi diciamo abbiamo la sensazione che la plastica sia più inquinante della carta, quindi è vero che la plastica è solo il 7% di tutti i rifiuti, però nella nostra testa è più grave una bottiglia in mare piuttosto che un quaderno in mare. Sì, anche perché la plastica ha una caratteristica che la carta non ha, che non è biodegradabile, a meno che non sia bioplastica. Esattamente, fine c'è il grande recettore finale che è il mare, che tutto accoglie, e voi sapete i dati allarmanti al 2050 si stima sia più plastica che pesci nei mari. Lì volevamo portare, insomma, non dobbiamo andare avanti con questo. La strada è lunga, però l'Italia, la notizia bella è questa, che l'Italia è proprio in prima linea su questa strada. Molti ci seguono e stiamo scoprendo questa vocazione anche, no? E quindi va bene, insomma, continuiamo a lavorarci su. Io vi ringrazio entrambi, Enzo Favorino, Zero Rifiuti, il sindaco di Adelfia. Grazie per essere stati con noi. Complimenti. Grazie a voi. Grazie veramente. Grazie a voi. Anche per quello che fate. Molti seguono la nostra strada, mi sembra bello, però, e anche perché per una volta ci inseguono, ma non per sgridarci o menarci. Si può fare. Soundcheck, il suono della musica, di Gigi Telesforo. L'appuntamento con la prova del suono è il sabato e la domenica a partire dalle 19.15 in collegamento con il Groove Master Studio per un pieno di grande musica, la nostra migliore discografia e tanta musica dal vivo, sempre soltanto su Radio 24.

Noi abbiamo acquistato qualche mese fa mezzi nuovi, do un'informazione, un autobus nuovo costa attorno ai 220.000 euro e quelli urbani, dopo 10 giorni abbiamo dovuto riportarli in officina perché è fortemente danneggiato, sedili divelti. Abbiamo purtroppo una recrudescenza di comportamenti, diciamo, maleducati, quando non chiaramente criminali, nei confronti dei quali dobbiamo prendere qualche misura in più. Purtroppo il ricorso alle telecamere diventa uno degli elementi quasi obbligatori per poter costituire una maggiore deterrenza a questi comportamenti. Grazie per essere stato con noi. Grazie al grazie presidente a voi, di Seta Trasporti. Alla prossima. Alla prossima. Ed è tutto per questa puntata speciale, una puntata di Natale quasi, sì, ormai ci siamo. Sì. Con veloce che andiamo a scartare. Andiamo a scartare i reali. Ci risentiamo sabato prossimo allora con un nuovo best of. Ciao da Alessio Maurizi. E ciao e buon Natale da Carlo Gabardini.